Ho cominciato a lavorare in Afghanistan nel gennaio del 2002, nella zona del nord, nella regione del Badakhshan, che era la zona controllata dall'Alleanza del Nord, quindi non sotto il controllo talebani. Aveva un progetto medico. Diciamo, la particolarità di questa zona è che è l'unica zona dell'Afghanistan dove durante l'ultima guerra, quindi il periodo di ristabilizzazione dell'ordine, se possiamo dire così, da parte delle forze di coalizione, diciamo, i volontari internazionali sono rimasti per tutto il periodo della guerra, mentre in altre zone del paese, per una questione di sicurezza, hanno momentaneamente dovuto lasciare il paese. L'esperienza è stata molto interessante, per il mio punto di vista. Diciamo che l'Afghanistan è un paese molto grande con molte differenze. Ci sono diversi gruppi etnici, diverse fazioni anche politiche, quindi lavorare in una zona o nell'altra può essere molto differente. La percezione della popolazione rispetto agli operatori internazionali nel nord è sempre stata di un'apertura totale, quindi non abbiamo mai avuto problemi di accettazione, di sicurezza, siamo sempre stati molto protetti, molto ben conosciuti, quindi ci conoscevano molto bene, c'era una buona cooperazione con le autorità civili e sanitarie e insomma, il progetto andava abbastanza bene, quindi diciamo, abbiamo potuto vedere una certa ripresa dal punto di vista di sviluppo del paese, quindi anche di accessibilità alle strutture sanitarie e così via. Negli ultimi periodi, invece, in altre zone del paese, che poi si è mano a mano allargato a quasi tutto il paese, si è cominciato a vedere un aumento della insicurezza, non solamente per noi, ma anche per le popolazioni locali, per il nostro staff, ovviamente, che comunque è identificato, nonostante sia di nazionalità afghana, è comunque identificato come connesso con organizzazioni di origine occidentale, se possiamo dire così. Quindi la sicurezza, diciamo, è andata decisamente calando fino a questa escalation che è avvenuta il 2 giugno con appunto l'uccisione di cinque dei nostri volontari, tre volontari occidentali e due lavoratori afghani. Questo ci ha ovviamente fatto riflettere molto, in quanto appunto nonostante sì, eravamo a conoscenza ovviamente dei problemi di sicurezza, però effettivamente ancora avevamo l'impressione di essere abbastanza protetti automaticamente dalla nostra funzione umanitaria. E a questo punto si è cominciato a discutere parecchio su questo problema appunto della confusione che si sta creando in molti di questi paesi in conflitto tra i ruoli che ha l'assistenza umanitaria e quelli che hanno invece i militari, quindi le forze militari che siano interne o esterne. E abbiamo cominciato a vedere che questo restringe incredibilmente lo spazio umanitario per i cosiddetti professionisti umanitari che possiamo essere noi e diciamo, abbiamo dovuto fare questa considerazione riguardo ai problemi di sicurezza e siccome nel periodo dal 2 giugno fino adesso non abbiamo onestamente visto molti miglioramenti riguardo a un'assicurazione sulla nostra possibile sicurezza e non parlo semplicemente di quella degli occidentali, ma anche e soprattutto dei nostri lavoratori locali, i quali appunto mentre noi a un certo punto possiamo sempre andare via, loro devono rimanere all'interno del paese e quindi è stata presa questa decisione estremamente sofferta di lasciare un paese nel quale siamo presenti da circa 24 anni e che senza alcun dubbio ha bisogno di organizzazioni. In questo momento non c'è la sicurezza. Che cosa significa ristabilire la sicurezza? da un punto di vista tecnico non è certamente il nostro compito. Quello che a noi interessa è che sia garantita la sicurezza per gli operatori internazionali, per gli operatori locali e soprattutto per i beneficiari che abbiano la possibilità di muoversi, di poter raggiungere le strutture sanitarie.